24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qui, buongiorno cari ascoltatori, sono le 7:23 minuti, saluto Filippo Aureggi che oggi sta in regia con noi fino alle 9. E di che parleremo? Beh, avremo ospite oggi il dipendente pubblico che ha denunciato i suoi colleghi assenteisti e da allora non vive più. Così ha denunciato, ieri ne parlavamo, la sua vicenda è finita sui giornali, sarà il nostro ospite alle 8:20, come avremo ospite Dario Fo, premio Nobel, e poi con lui anche Piero Stellino. Parleremo di quello che sta succedendo a Milano, dove un collettivo di artisti ha occupato, poi sgomberati ieri, ma sono ancora lì in strada, sono passato poco fa, ci sono delle tende, bloccano la via pubblica. Hanno occupato un palazzo, per la verità non utilizzato, un palazzo lasciato così in abbandono nel cuore di Milano, di proprietà del costruttore Ligresti. Una vicenda che riporta le questioni occupazione, non occupazione, spazi alla cultura nelle città. Ne parleremo alle 8:30. Ora, come al solito, iniziamo dalla lettura dei quotidiani in edicola. Questo mercoledì 16 maggio lo sguardo è tutto su Atene, l'Europa, quello che sta succedendo, ore difficili. I titoli, il Sole 24 Ore, la Grecia spaventa l'Europa, borsa in caduta, spread a 439. Per il Corriere della Sera, lavoriamo per salvare l'Unione Europea, Repubblica, Merkel e Hollande, salvare la Grecia. Ma i titoli sono tutti così. Il Messaggero, Grecia nel caos, allarme in Europa. Per il Manifesto il momento è drammatico, ovviamente c'è riferimento alla dracma, mentre si evoca anche il fulmine che ieri ha colpito l'aereo di Hollande, stava andando all'incontro con la Merkel, un fulmine ha colpito l'aereo, ha dovuto rientrare e cambiare aereo, immagino anche lo spavento. Il Giornale, Dio li fulmina, così titola in prima pagina. Questi sono alcuni dei titoli, ne vedremo altri perché voglio andare subito a leggere qualche notizia. Intanto il provvedimento più lento, sembra Dorando Petri, no, ve lo ricordate, il maratoneta che a fatica conquistava il traguardo, il provvedimento più lento della storia del Parlamento. Quando si tratta di parlare del taglio e rimborso dei partiti, ieri abbiamo scoperto che lunedì alla Camera c'erano 20 deputati più o meno. Ora c'è l'ultima novità, uno slittamento. Ci sono le amministrative, il secondo turno, rinvio del voto sul dimezzamento dei soldi ai partiti. Così titola pagina 11 La Stampa con Carlo Bertini, quando ieri mattina è stato informato Bersani ha fatto un salto sulla sedia, si è inalberato parecchio e ha tuonato così. Se la settimana prossima non c'è il dimezzamento del finanziamento ai partiti, mi sentono. Così Bersani quando ha saputo dell'ennesimo slittamento. Eh sì, il rinvio di un voto così atteso al 22 maggio è una mossa non gradita a molti, giustificato dai regolamenti che impongono 24 ore di pausa prima del voto di fiducia sul decreto per le banche, dalla considerazione che fosse meglio far slittare una discussione così complessa dopo i ballottaggi. Questo slittamento avrebbe dovuto essere evitato. E invece, fatto sta, nuove tensioni, la ragioneria dello Stato tra l'altro è intervenuta per dare un parere e certificare che si può parlare di dimezzamento solo per il 2012 con i rimborsi tagliati da 182 a 91 milioni, ma non a regime perché ci sono tutte questioni burocratiche che non vi sto neanche a raccontare perché mi ci perdo se ve le sto a raccontare, ma anche la ragioneria dello Stato poi è intervenuta anche sulla detrazione fiscale prevista dalla nuova legge, non si può fare al 38%, non si può fare al 27%, va abbassata al 26%, insomma, per carità, cioè la legge, fare una legge è una cosa anche complessa, ci sono tutti i parametri tecnici da rispettare eccetera, il dato di fatto è questo, l'ennesimo continuo slittamento giorno dopo giorno e Bersani che dice o settimana prossima o mi sentono. E voglio raccontare invece, vi ricordate qualche settimana fa quando il Fatto Quotidiano tirò fuori una storia di un pentito dei casalesi che denunciò il regista di Gomorra, Garrone, per fare Gomorra appunto, incontrò un boss della Camorra agli arresti domiciliari e pagò anche dei soldi, il pizzo. Beh, la vicenda ora è andata avanti perché la procura ha voluto vederci chiaro e ha convocato il regista Matteo Garrone. Il fatto ci ritorna su questa vicenda, ma anche il secolo XIX, Ciacca si interroga il regista Garrone dai PM, e guardate il Fatto Quotidiano con Ferruccio Sans e Nello Trocchia, pagina 14, va a intercettare all'uscita dalla procura Garrone, un Garrone infuriato che conferma l'incontro con il boss, ma l'ho fatto per arte, per documentarmi, e non sapevo che era gli arresti domiciliari. Oh, abbiamo anche sdoganato l'incontro con un boss dei Casalesi a sua insaputa. Eccolo qua l'inizio dell'articolo. Io stavo pensando a cane, mi tocca andare in procura a rispondere dei miei incontri con un boss della camorra, e quando esco i giornalisti a trattarmi come un criminale, ma ti rendi conto? A me colpisce l'ottusità mentale di personaggi come te, si rivolge al cronista. Tu hai dei problemi, dei problemi. Tu sei un uomo piccolo piccolo, sai cosa penso? Lo sai che avete tirato fuori questa storia di quel pentito che parla di miei incontri con un boss della camorra perché devo andare a Cannes tra pochi giorni? Al che il giornalista dice: scusi, ma che interesse avremmo noi a ostacolare la sua possibile vittoria alla Palma d'Oro? Ma che ne so, vendere forse qualche copia in più sulla mia pelle? Pensa alla tua vita. Al che il cronista dice: che vuol dire, scusi? Pensa alla tua vita, che io penso alla mia, risponde Garrone. Un regista dato per arrabbiato di più. Il pavimento di linoleum consumato della procura invece del tappeto rosso della Croisette di Cannes. Lunedì è stato un giorno difficile per lui. E la vicenda è questa, appunto, di un pentito che dice ha incontrato un boss della camorra agli arresti domiciliari per fare il film Gomorra. Non ho niente da dire, è falso. Ma scusi, alla fine dice: ma noi siamo venuti a chiedere questa cosa, lei ha incontrato il boss Cirillo? Sì. E quindi ammette Garrone: l'ho detto anche ai magistrati, ma non sapevo che fosse agli arresti domiciliari, comunque ci sarei andato lo stesso. Eravamo nel 2007, dovevo documentarmi, dovevo capire quel mondo. Anche quando volevo fare un film su Corona, ho passato dei giorni a casa di Lele Mora in Costa Smeralda. Non c'è niente di male. Insomma, e poi dice: non ho pagato neanche una lira. Il titolo comunque è Garrone. Ho visto i boss, ma per arte. Il regista di Gomorra ammette il suo incontro col camorrista Cirillo a sua insaputa, ma smentisce il pentito spagnuolo sul pagamento del pizzo. E vabbè, questo lo trovate sul Fatto Quotidiano a pagina 14. Eccoci alle 7:36 minuti, allora tutti gli sguardi sono puntati dell'Europa su Atene, ma non solo, sulla Francia, sulla Germania, sull'Italia anche, perché sono momenti davvero difficili. Ormai è ufficiale, ad Atene non c'è un governo. Il 70% dei greci hanno votato per formazioni politiche anti-eurozona, di fatto, anti-euro. Non si è trovato un accordo politico, si dovrà rivotare. Caos ad Atene, allarme euro, questo è il titolo di pagina 5 del Sole 24 Ore, con Vittorio D'Arold, l'inviato ad Atene, che racconta già di una campagna elettorale già iniziata sotto il Partenone, fallite infatti le trattative per formare il governo, e questa è la situazione politica di forte instabilità che destabilizza anche la situazione europea in generale, anche perché le visioni di cosa fare a questo punto, certo salvare l'Unione Europea, salvare la Grecia, lasciarla abbandonare al proprio destino, nel senso di destino economico, di uscita dall'eurozona, uscita dall'euro, come cercare di salvare invece l'Unione Europea? Beh, ieri Francia e Germania sono messi al tavolo con i loro due leader di Stato, Angela Merkel e François Hollande. Olanda, la Merkel dice: servono gli eurobond, bisogna essere uniti per crescere. Questa parola crescita, crescita, l'idea di restare nell'euro con la crescita, così spinge la Francia, anche sostenuta dall'Italia, con Monti e anche da Obama, che dall'altra parte dell'oceano dice: ci vogliono più sforzi per la crescita. Mentre il rigore di Angela Merkel, che però dal punto di vista elettorale ha subito una sconfitta alle recenti elezioni in Olanda, Chiaramente, però Angela Merkel tiene duro su questo. Ovviamente vi lascio immaginare tutti i giornali che ironizzano su e utilizzano questa disavventura di Hollande, che è partito in aereo per andare a incontrare Angela Merkel e il suo aereo è stato colpito da un fulmine, dovuto tornare con anche presumibile spavento. Dio li fulmina, questo è il titolo di prima pagina del giornale. La Grecia torna al voto, la maledizione dell'euro, mentre Repubblica, tuoni e fulmini contro l'aereo, il debutto del presidente normale. La cosa in realtà, al di là del colore anche, che vi voglio segnalare, sono due pagine del Sole 24 Ore del Corriere della Sera su il tema: che succede se la Grecia esce dall'euro? Sono domande e risposte molto intelligenti, interessanti, pratiche, pragmatiche. A pagina 4 del Sole 24 Ore, la prima domanda: la Grecia vuole uscire dall'eurozona? Beh, certamente il 70% dei voti, appunto, è andato a movimenti politici alle ultime elezioni che rifiutano le condizioni imposte ad Atene in cambio degli aiuti dell'Unione Europea e del Fondo Monetario, ma secondo i sondaggi il 78% dei greci in realtà desidera restare in Europa, nell'eurozona. Forse allora quello che vogliono i greci è continuare a stare nell'unione monetaria, pagando però un prezzo meno salato. Cosa significa per la Grecia uscire? Intanto nessuno Stato membro, racconta il Sole, può uscire di fatto dall'euro a norma dei trattati istitutivi. Per farlo bisogna denunciare il trattato di adesione all'Unione Europea, dalla quale al contrario si può invece uscire, e ammesso che ciò accada il governo dovrebbe varare una legge per istituire una moneta, la dracma, nella quale dovrebbe ridenominare tutti i rapporti economici nazionali, stipendi, pensioni, contratti, imporre controlli valutari, dovrebbe poi stampare e distribuire la moneta, che non è un'operazione tutt'altro che facile. Il precedente più recente, ricorda il Financial Times, è stato l'Iraq nel 2003, ma la coalizione degli Stati Uniti lì in tre mesi poté contare su un dispiegamento di forza imponente. Per garantire l'equilibrio della bilancia commerciale, la nuova dracma dovrebbe entrare sui mercati monetari con un valore del 15-20% più basso rispetto all'euro. E per quel che riguarda le svalutazioni, ci sono casi di ipotesi di svalutazione fino al 60-70%. L'uscita dall'euro inoltre manderebbe in default la Grecia, che non sarebbe in grado di rimborsare i prestiti ricevuti da Unione Europea, Banca Centrale, Fondo Monetario. Finora solo Zimbabwe, Somalia e Sudan non hanno rimborsato gli aiuti del Fondo Monetario. Insomma, queste alcune delle situazioni. Poi il Corriere della Sera invece, sotto questa pagina, appunto, scenari e conseguenze anche per le famiglie, analizza cosa succederebbe al cambio, con appunto l'ipotesi di una dracma in caduta libera fino al 70% di svalutazione. Cosa succederebbe ai mutui per chi ha un prestito contratto in euro in Grecia e con il cambio alla dracma? Insomma, ci sono già gli scenari e le ipotesi di una possibile uscita dall'eurozona, dall'euro per Atene. Riccardo Barenghi sulla Stampa, pagina 3, dal titolo: Reni è impietoso. Il Duce l'aveva previsto, spezzeremo le reni alla Grecia. Chiaramente tutto questo ha dei riflessi anche sull'Italia, sulla politica italiana. C'è un Mario Monti che oggi a pranzo vedrà Silvio Berlusconi, Gianni Letta, un pranzo che era stato rinviato nelle scorse settimane, e che racconta il Corriere della Sera con Paola Di Caro e Monica Guerzoni a pagina 12, è un Monti fortemente preoccupato. Forte preoccupazione, questa è la sensazione del Premier, che oggi con a fianco il sottosegretario Catricalà vedrà appunto Berlusconi, Alfano, il segretario del Popolo della Libertà, e Gianni Letta. Il punto sulle trattative in Europa, sulla giustizia, sulla RAI, si vocifera. Secondo il Foglio, in prima pagina con Salvatore Merlo, anche il tema della giustizia entrerà nel menù di questo pranzo. Voci di corridoio, infatti, raccontano di quello che è successo ieri, e tra l'altro si racconta anche di un PDL che vorrebbe modificare il reato di concussione, perché c'è sempre il processo Ruby che incombe sull'ex presidente del Consiglio Berlusconi. Dunque giustizia, racconta Salvatore Merlo, che torna a essere una grana. E d'altronde che la grana giustizia sia effettivamente così lo si è capito ieri, in una giornata, come ci ha raccontato Elisabetta Fiorito nel giornale radio, a dir poco convulsa in Parlamento. Vediamo di capire che cosa è successo attraverso la cronaca dei giornali. Allora, da questo punto di vista, gli articoli più chiari forse sono sul Secolo XIX, li trovate a pagina 3 con Angelo Bocconetti, o sul Corriere della Sera, pagina 15, con Maria Antonietta Calabrò. Ieri si discuteva intanto il disegno di legge sulla anticorruzione, e lì c'è stata un'ostruzione da parte di deputati del Popolo della Libertà, ma poi in Commissione Giustizia si discuteva di che cosa? Il reato di falso in bilancio. Si doveva esaminare una proposta dell'Italia dei Valori per reintrodurre nel nostro codice il reato di falso in bilancio, come sollecitato dall'Unione Europea, leggo dal Sole 24 Ore. Si presenta al sottosegretario alla giustizia Salvatore Mazzamuto. Perché? Perché il ministro Severino, che ha seguito il provvedimento, è negli Stati Uniti. Si doveva presentare un altro sottosegretario che ha seguito la vicenda, Zoppini, che nel frattempo però si è dimesso perché ha ricevuto un avviso di garanzia, e quindi si è presentato il sottosegretario Mazzamuto, che per sua stessa missione, lo sentiremo tra poco dal Corriere della Sera, non ne sapeva praticamente nulla di questo provvedimento. E allora che cosa ha fatto Mazzamuto? Ha dato parere favorevole a un emendamento del PD, del Popolo della Libertà, che di fatto lascia invariata l'attuale normativa, che secondo per esempio Di Pietro è una normativa ad personam per Berlusconi, ma soprattutto ha dato parere favorevole ad un emendamento per il quale invece il governo aveva un parere più sfavorevole che favorevole. Insomma, una vicenda complicatissima. Sta di fatto che il sottosegretario avrebbe dato parere favorevole, cioè il governo è favorevole a questa cosa, votate, ma in realtà il governo non è favorevole a questa cosa, e il sottosegretario rappresenta il governo. E tanto che poi in serata è intervenuta il ministro Severino a dire: c'è stato un errore, nel senso che il sottosegretario Mazzamuto non ha letto per intero la scheda che gli abbiamo fornito. Una roba quasi comica, cioè un sottosegretario che si presenta, non sa nulla di un provvedimento per sua stessa ammissione, gli danno una scheda, come dire, leggi qui, è tutto chiaro, devi fare così. Lui si presenta e sbaglia, e dice: do parere favorevole a una cosa che in realtà sulla quale il governo aveva parere semifavorevole. Insomma, sul Corriere della Sera, pagina 15, non ne sapevo nulla, ero lì soltanto perché il collega si è dimesso. Intervista: non l'ho capito, la scheda non era chiara, cioè gli è andata una scheda, non ne sapevo nulla, non ci dovevo proprio essere io in Commissione Giustizia, sono vittima di Zoppini, cioè il collega che nel frattempo si è dimesso, e si abbandona sui divani alla fine di una giornata, si accascia sul divanetto, si fa aria con i fogli il sottosegretario Mazzamuto. Ma come, professore, ma lei insegna diritto all'università? Gli chiede Virginia Piccolillo. Sì, ma diritto civile, ma non c'entra, io di solito seguo altri provvedimenti al Senato e Zoppini segue quelli alla Camera. Io non sapevo nulla, se ne occupava direttamente il ministro che è negli Stati Uniti, poi, viste le dimissioni di Zoppini, sono stato catapultato io. E immaginate il dramma di Mazzamuto, che arriva ad un provvedimento nel cui deve dare pareri del governo e non capisce nulla, non sa nulla, gli danno anche una scheda ma legge male, ho sbagliato, chiedo scusa. E poi lo accusano ovviamente di aver fatto tutto in maniera, per esempio Di Pietro è stato molto duro, ha fatto tutto in maniera per pilotare un voto, cioè il sottosegretario dice: ecco, io non dovevo essere in commissione, non era compito mio, poi all'ultimo minuto vengo mandato a risolvere un'urgenza e mi ritrovo pure insolentito da Di Pietro. Vabbè, il dramma del sottosegretario Mazzamuto. Nel frattempo il suo collega Zoppini si era dimesso. E allora il dramma del sottosegretario alla giustizia Mazzamuto, catapultato in Commissione Giustizia a discutere un provvedimento di cui non sapeva nulla, perché il ministro era all'estero. Nel frattempo il sottosegretario che aveva seguito la vicenda, Andrea Zoppini, si era dovuto dimettere, perché ha deciso così dopo che ha ricevuto un avviso di garanzia dalla procura di Verbania. L'accusa è quella di concorso in frode fiscale, dichiarazione fraudolenta, quindi quello di avere aiutato alcune persone ad avere occultato all'estero dei soldi, e accuse pesanti sicuramente. Sta di fatto che il giornale per esempio titola così: i prof ci tassano e poi frodano il fisco, imbarazzo al governo per il sottosegretario alla giustizia Zoppini, costretto a dimettersi, è indagato. E insomma, il pasticciaccio giustizia, sul tema giustizia, ieri alla Camera. Vi voglio segnalare invece una storia che mi ha abbastanza inquietato e che leggo dal Manifesto in prima pagina. Il titolo è questo: il nazi commissariato contro gli immigrati. È Cinzia Gubbini che racconta del commissariato di Trieste, dove un misterioso suicidio di una giovane donna ucraina che era nella cella del commissariato di Villa Opicina ha svelato poi i contorni di un'inchiesta le cui accuse sono davvero incredibili. Cioè, l'accusa è questa, racconta a pagina 3 Cinzia Gubbini: il fermacarte di Mussolini, dietro la scrivania una targa con su scritto ufficio epurazione, sberleffo della dizione ufficiale dell'ufficio che dirige, quello dell'immigrazione a Trieste. A casa un vero arsenale di testi antisemiti, il Mein Kampf, ma anche un libro come questo, Come riconoscere un ebreo. Carlo Baffi, dirigente della questura triestina, è indagato per sequestro di persona e omicidio colposo. A scoperchiare il pentolone su come funzionasse il commissario di Villa Opicina c'è il suicidio appunto di una giovane ragazza ucraina avvenuto nelle stanze della polizia. Dalle indagini sulla vicenda condotte dal PM Massimo De Bortoli stanno emergendo filoni più ampi. La procura è interessata infatti a quello che sta emergendo, cioè l'ufficio di Baffi, secondo l'accusa, riteneva la legge insufficiente e si organizzava di conseguenza rinchiudendo in questura gli immigrati in attesa della decisione del prefetto, quello che viene definito sequestro di persona. Le accuse sono gravissime, insomma, viene titolato sul Manifesto il commissariato degli orrori. Il misterioso suicidio di una donna ucraina in un commissariato svela un nucleo di poliziotti neofascisti, così scrive il Manifesto. A guidarli c'è il vice questore Baffi, accusato di omicidio ed è ancora lì. Beh, è una vicenda davvero, davvero inquietante, raccontata. Ovviamente queste sono le accuse della procura su cui si sta indagando sul Manifesto a pagina 3. Noi parleremo della vicenda di Milano, troverete vari giornali, avete sentito anche nella viabilità che c'è una via di Milano che è chiusa per un presidio. Il presidio sono di questi del gruppo Macao, un collettivo di artisti che hanno prima occupato per vari giorni un edificio abbandonato di proprietà di Ligresti, del costruttore Ligresti. Siamo nel cuore di Milano, siamo a 100 metri dal Pirellone, la sede della regione Lombardia, a 200 metri dalla stazione centrale. Poi sono stati sgomberati perché insomma era proprietà privata e adesso sono in strada. Ieri sono stato in strada centinaia, io questa mattina sono passato presto alle 6 del mattino giusto per vedere com'era la situazione. C'erano delle macchine che bloccavano la via, delle tende, qualcuno che dormiva in strada. Ieri è arrivato anche il sindaco Pisapia a dire: vi daremo un'altra zona, dovete sgombrare, dovete spostarvi. Insomma, parleremo di questo, avremo ospite Dario Fo, premio Nobel, che ieri è andato a dare solidarietà, avremo ospite Piero Stellino, perché i temi che pongono questi giovani è: non ci sono spazi per la cultura nelle città, e quindi ce ne siamo presi uno che era abbandonato. Milano, sgomberata la torre, Pisapia dice: avrete un'ex fabbrica, così a pagina 24 del Corriere della Sera. Il tema è anche sulla Stampa, pagina 20: sgomberati gli artisti, fischi a Pisapia. Di questo parleremo dalle 8:30, ma a questo punto a chi dobbiamo dare la linea? Al giornale radio. 24 mattino. Sono le 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua. Allora, ieri raccontavamo che la Corte dei Conti ha certificato in una relazione che il problema principale dei dipendenti pubblici italiani è la mancanza di produttività, anche perché manca la meritocrazia nel settore pubblico. Ne vogliamo parlare con una persona che ieri ha assurto agli onori della cronaca, ha fatto anche una conferenza stampa due giorni fa per denunciare la sua storia, Ciro Rinaldi, che saluto, buongiorno e benvenuto Rinaldi. Buongiorno. È un funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico a Bologna. Lei qualche anno fa ha fatto il suo dovere, ha visto che alcuni suoi colleghi cosa facevano, non lavoravano? Ma praticamente la cosa mi era stata segnalata da due colleghi, io allora ero rappresentante sindacale, che si lamentavano del fatto che nel loro settore rimanevano spesso da sole a fare il lavoro perché le altre persone non c'erano. E che facevano? E mi avevano, che facevano? Praticamente non andavano fuori oppure arrivavano in ritardo senza preoccuparsi del lavoro. Poi alcune cose le ho verificate anch'io e sostanzialmente il loro sistema, chiamiamolo così, mi scusi il termine, era quello che praticamente a turno si scambiavano i cartellini, per cui una sola persona arrivando la mattina verso le 7:30, che è l'ora d'inizio del lavoro, timbrava per le altre. Le altre arrivavano con calma verso le 9:30, secondo poi... Un classico, uno che timbra, esatto. i badge per tutti. All'uscita idem, cioè uno a turno timbrava, se ne andavano prima e uno a turno timbrava. Lei... E poi è stato confermato dalla Guardia di Finanza. Lei ha denunciato tutto, la procura, sì, hanno messo le telecamere, hanno accertato, sì, poi ci sarà un processo, ci sono 29 persone rinviate a giudizio. Il problema, sì, è che lei ha voluto... L'udienza preliminare il 24. Il 24 maggio. Lei però quello che ha voluto denunciare è stato questo: io ho fatto il mio dovere. Da quel giorno com'è la sua vita nell'ufficio con quei colleghi che lei ha denunciato? Ma da isolamento, ma vabbè, il fatto che non mi avrebbero più salutato, sarebbero stato io, l'avevo messo in conto. Quello che non mi aspettavo era l'atteggiamento dell'amministrazione, che ha fatto di tutto per difendermi, in particolar modo il dirigente locale, che ha sempre, diciamo, negato l'evidenza, quindi anche di fronte a... i primi avvisi di garanzia arrivati nel novembre del 2009 e poi la prosecuzione delle indagini che è stata portata a conclusione nell'aprile del 2010, per cui a quel punto c'erano state 33 persone indagate alla conclusione delle indagini. Beh. Da quel momento in poi, in pratica, tutti, addirittura diciamo i quattro capisettore che erano indagati, due di questi sono andati in pensione e sono stati sostituiti come capisettore da altri due praticamente che erano indagati e adesso sono rinviati a giudizio. Lei infatti premi e compagnia bella. Cioè, le persone che lei ha denunciato e che ora si troveranno a processo per truffa sono state, non solo al momento sono state rimosse, per carità, ci vorrà un processo, cioè, ma sono state anche, le vede premiate, le vede avanzare di carriera, no? Sì, fanno ancora quello che gli pare. Cioè, il discorso è molto semplice. D'accordo che, come dice il dirigente, almeno da quello che ha affermato i giornali, è stato iniziato il procedimento disciplinare e poi interrotto in attesa delle indagini. Ma questo chiaramente non ha vietato sia ad alcuni di avere promozioni e poi nella distribuzione del premio incentivante di essere preferite. Le faccio ad esempio, c'è un caposettore, prende un'indennità annuale come caposettore, che è di circa 800-1000 euro, adesso non so di preciso. Poi c'è stato... Ed è tra quelli rinviati a giudizio? Sì, tutti praticamente, tutti e quattro. Sono tutti rinviati a giudizio, quattro capisettori. Senta, ma poi, tra l'altro, leggo anche di... lei ha denunciato minacce, insulti, cioè lettere anche di colleghi, non si viveva, sì, non vivevi meglio a startene tranquillo e zitto. Esatto, sì, sì, una lettera firmata anche, quindi. Poi SMS in cui praticamente c'erano delle offese nei miei confronti e anche nei confronti della collega, la lavoratrice, che praticamente aveva testimoniato, uno di quelli che aveva segnalato la cosa, che poi coraggiosamente ha testimoniato, e che è stata costretta praticamente ad chiedere un comando ad altra amministrazione, perché tornando da un piccolo periodo di malattia, per un problema serio e non per assenteismo, perché era una persona questa che lavora veramente, tra l'altro collaborava con me a fare ispezioni, è stata rimossa da quell'incarico. Il dirigente si è assunto lui la responsabilità di giustificare la cosa come se quel lavoro di ispezione procurasse stress. Sì. In questo si è fatto corroborare da un certificato del medico dell'amministrazione, diciamo, ribaltato poi dalla commissione dell'INPS. Ma senta, ma Rinaldi, ma lei quando sente parlare o quando sente dire la Corte dei Conti manca la meritocrazia nel settore pubblico, che pensa? Ma penso praticamente che io sono uno che era contrario alla legge Brunetta per il semplice motivo che secondo me il problema non sono i dipendenti, perché la maggior parte fa il suo dovere. Il problema è, come dice il famoso proverbio, che il pesce quando puzza puzza dalla testa. Cioè, nel momento in cui praticamente i dirigenti non verificano quello che è il comportamento, tra l'altro questo atteggiamento di queste persone era stato segnalato al dirigente locale dal 2007 in poi, da rappresentanti sindacali, dai lavoratori, e lui chiaramente se n'è sempre fregato. E anche di fronte all'evidenza praticamente ha continuato chiaramente a premiare quelli che sono adesso in via del giudizio, dandogli anche per le auto proprie il patacchino di interesse pubblico, per cui queste persone possono girare dove gli pare. Ma la cosa ancora più grave è che a livello centrale il ministero, cioè il capo del personale, non intervenga per capire, diciamo, che cosa sta succedendo. E infatti lei ha anche ha fatto un appello al ministero, si costituisca parte civile, cioè al processo. Sì, perché non è sicuro neanche questo, cioè non sembra che il ministero sia poi più di tanto interessato a costituirsi parte civile, o almeno non abbiamo notizia né io né il mio avvocato di queste costituzioni. Ma voglio dire, ma lei rifarebbe tutto, la denuncia eccetera, perché effettivamente io lo rifarei, perché ci credo. È chiaro che ovviamente mi metto nei panni di chi magari praticamente alcune volte non riesce ad avere il coraggio di denunciare, perché poi teme le ripercussioni che ci sono, cioè è inevitabile, cioè funziona così praticamente. Io l'ho vissuto sulla mia pelle e anche altri l'hanno vissuto sulla propria pelle, cioè alla fine il concetto è quello che lei diceva prima di quella lettera, cioè, ma non ti potevi fare i fatti tuoi e stavi in pace, magari avevi anche qualche prebenda perché eri stato zitto. Questo è il concetto. Questo è il concetto. È un po' deludente, no? Perché se il paese poi uno dice va a rotolo e lo vuole riformare, bisogna partire da queste cose qui. Certo, anche perché lei vede che le schede di valutazione per 2 anni sono state fatte dal dirigente locale, davano punteggi superiori sulla produttività e sulle relazioni con l'amministrazione a 6 persone che adesso sono rinviate a giudizio. Cioè, le faccio l'esempio, la mia scheda, l'ultima che ho avuto l'anno scorso, riportavo voti alti nella produttività. Quando siamo andati sul voto praticamente in cui c'era scritto rapporti con i colleghi e con l'amministrazione, il voto era basso. Ho chiesto praticamente spiegazione al dirigente e mi ha fatto capire tra le righe che era arrivata la Guardia di Finanza in ufficio, non potevo mica pretendere che rapporti con... Ovviamente lei premi non ne ha avuti, chiaro. No, praticamente diciamo mediamente sono stato escluso da premi di produzione alti. Vabbè, caposettore non lo voglio diventare perché chiaramente mi farebbe anche piacere, voglio dire. Ma anche nella distribuzione, ma non è solo il problema per me, chiaramente, nella distribuzione del premi di produzione. E anche nel 2009 c'è stata, diciamo, la partecipazione indicata dal dirigente a dei progetti nazionali in cui queste persone hanno preso mediamente da 800 a 1000 euro. Guarda caso sono stati fatti fuori tutti quelli che non erano allineati con l'amministrazione. Tra cui lei. No, ma tra cui me non è questo il problema. No, vabbè, ma certo, ma è chiaro, lei denuncia un problema. Ma è chiaro, denuncia un problema, non ne fa una questione personale. Ciro Rinaldi, io qui la devo fermare, la devo ringraziare, ma stiamo a vedere questa vicenda come va a finire, questi 29. Speriamo bene, perché almeno il Ministero intervenga per fare qualcosa. Grazie per essere stato con noi, funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico di Bologna, Ciro Rinaldi, che ha avuto la forza e il coraggio di denunciare presunti assenteisti quando non c'è ancora la condanna, ci sarà il processo, e da allora dice la mia vita qui è una vita difficile. Noi dopo la pubblicità nel meteo andremo a capire cosa sta succedendo a Milano, nel cuore di Milano, dove un collettivo di artisti, collettivo Macao, ha occupato per alcuni giorni un palazzo abbandonato, per la verità, di un costruttore. Ieri sono stati sgomberati, sono per strada, rivendicano spazi per la cultura, hanno avuto anche l'appoggio di, per esempio, Dario Fo, che sarà nostro ospite tra poco. Cercheremo di capire come mai può succedere, se sono giuste le rivendicazioni di chi occupa una proprietà privata e poi ottiene anche dal sindaco Pisapia un nuovo spazio per fare cultura. 800240024, tra poco. 24 mattino. Eccoci qui alle 8:36 minuti. Stamattina, prima di arrivare in radio alle 6 del mattino, sono passato sotto la Torre Galfa. La Torre Galfa, per chi non è di Milano, è un edificio a poche centinaia di metri dalla stazione centrale, dal Pirellone anche, quindi dalla sede della Regione Lombardia. È di proprietà del costruttore Ligresti, è un edificio per la verità abbandonato da anni. Qualche giorno fa un collettivo Macao, un collettivo di artisti, l'hanno occupato dicendo ci vogliono spazi per la cultura, mancano spazi per la città. Ieri c'è stato lo sgombero, è una proprietà privata, e si sono riversati e hanno fatto, diciamo, un presidio permanente in strada. Erano lì anche questa mattina, strada pubblica bloccata, qualche tenda per chi dormiva, macchine messe di traverso. Ieri a dare solidarietà anche Dario Fo, premio Nobel per la letteratura, che saluto. Dario Fo, buongiorno. Salve. E come mai lei è andato a dare solidarietà? Beh, prima di andare avanti volevo ricordare che questa torre è stata abbandonata per la bellezza di 15 anni e poi ha dovuto subire un intervento piuttosto drastico in quanto era costruita con materiale cancerogeno e quindi è rimasta ferma ancora prima e sarà sempre abbandonata adesso che la polizia ha sequestrato e cacciato tutti quanti fuori, rimarrà una specie di rudere immenso in mezzo alla città, vuoto per l'eternità, a meno che non succeda una cosa nuova e che capovolga la situazione. Questo è la prima domanda. La seconda domanda era quella della solidarietà. Perché mi sembra che abbandonare un posto in pieno centro poi di Milano, nel luogo vissuto da un sacco di grattacieli e soprattutto col bisogno incredibile che esiste a Milano da tempo di spazi dove agire, dove creare, dove incontrarsi per realizzare non soltanto delle opere importanti, ma anche per gli scambi, per arrivare a incontrare delle persone che hanno delle idee e soprattutto metterle in atto. Questa per la solidarietà, però quella è una proprietà privata, su questo non... No, attenzione, è commissariata, cioè c'è stato un disastro sul piano finanziario, un disastro che ha messo in crisi e in mora il proprietario. E a un certo punto c'è il commissariamento, sì, però... cioè è gestita da un organo dello Stato. E beh, è comunque però dire... abbandonata. Questo sì, abbandonata. Con il pericolo che esiste nell'abbandono, perché lei sa che un luogo abbandonato è sotto possibilità di bruciare, cioè, e nessuno se ne accorge se non quando comincia a... Non dice, si può più intervenire. Abbandonata una bestia di quel genere, quando crolla, tira dentro tutto quello che c'è intorno. A maggior ragione, mi permetta la battuta, a maggior ragione non bisognerebbe entrarci se rischia di crollare. Ma è meglio che sia qualcuno che si accorga dei movimenti e avverta non soltanto quelli che stanno dentro, ma anche fuori. Non avviene così 1, 2, 3, ma si vede il decadimento del materiale e si può avvertire e dire usciamo perché qui non è al sicuro, ma avvertire nello stesso momento. No, ma certo, la denuncia. E Dario Fo, mi lasci salutare anche, perché spesso il nostro ospite lo saluta ancora con piacere, Piero Stellino, che ci sta ascoltando, editorialista del Corriere della Sera, ex direttore del Corriere. Buongiorno Stellino. Buongiorno. Senta Stellino, ieri è arrivato anche il sindaco di Milano, Pisapia, a un certo punto, dopo una serie di tentennamenti, bisogna dire, infatti è stato accolto tra fischi, applausi, e molte delle persone che sono lì sono probabilmente anche suoi elettori, e Pisapia ha detto abbiamo individuato un'altra zona e ve la daremo. Ora, anche oggi il Corriere della Sera si pone il problema, vuol dire che questo porrà altri interrogativi? È lecito occupare un qualcosa, una proprietà privata, e poi essere sgomberati per poi ottenere in cambio qualcos'altro? Beh, che sia lecito lo escluderei, perché insomma fin tanto che in Italia c'è la proprietà privata è un diritto individuale che non si può cancellare. Se però un edificio presenta delle caratteristiche di pericolosità per la popolazione, potrebbe crollare da un momento all'altro, insomma potrebbe produrre degli effetti negativi, c'è l'istituto dell'esproprio, cioè si espropria perché rappresenta un pericolo per gli altri. E fin qui siamo ancora dentro la legge, ma occupare una proprietà privata perché si devono come dire, fare certe cose, cioè riunirsi, parlare, discutere, eccetera, non ha alcun senso in un paese di democrazia liberale nel quale spero che viviamo ancora, tutto lì. Che ne pensa di questa iniziativa? L'ha seguita? Cioè, voglio dire, questi giovani rivendicano la mancanza di spazi per la cultura di Milano, rivendicano anche il fatto che un costruttore, in questo caso Ligresti, dice: ma come, ha tante costruzioni, magari ne farà anche altre e si permette di abbandonare un edificio che potrebbe essere utilizzato, è un po' anche la città, è un luogo anche di tutti, si permette di lasciarlo così libero. Ma tra i diritti di proprietà c'è anche quello di non utilizzare la proprietà di cui uno dispone, perché altrimenti la proprietà viene in qualche modo menomata, cioè se io ho una proprietà, un appartamento, e per ragioni di mercato, per ragioni soggettive non lo affitto, sono fatti miei, ma non è che poi qualcuno che passa per la strada ha il diritto di entrare nell'appartamento perché non è occupato. Cioè, mi pare che si stia, come dire, stravolgendo quello che è un diritto individuale in qualsiasi società di democrazia liberale. Cioè, i ragazzi hanno ragione di pretendere o di chiedere un posto dove fare cultura. Beh, innanzitutto io mi auguro che fare cultura sia veramente avere cultura, cioè in qualche modo manifestare qualche cosa di positivo, di utile per gli altri, insomma, o anche soltanto per se stessi. Ma con questa idea della cultura ormai i giovani fanno quello che diavolo vogliono, cioè spesse volte si riuniscono solo per fumare o per chiacchierare. Con questo, per carità, hanno il diritto anche di fare quello, non è che gli voglio negare il diritto di fare quello, però si abusa un pochino della parola, cultura. Ecco, si abusa un pochino. Dario Fo, occupare in sé non è reato, voglio dire. La cosa grave è che si dimentica il rispetto civile, è un atto incivile tenere disabitato uno spazio per questione di affari, perché c'è la speculazione, è stato comprato per un moto abbastanza ovvio di speculazione, tant'è vero che poi è stato commissariato, proprio perché dentro c'era un andazzo illegale nel modo di comporre tutta l'azione in genere. Ora, la cittadinanza non è gente che passa per caso, ma vive una città. La città non è fatta soltanto di proprietà assoluta e guai chi me la tocca, ma di moto che è culturale, morale, vitale. Però Dario Fo, se uno usa male la propria proprietà, non è che io ho il diritto in quanto cittadino allora di arrogarmi il diritto, allora la usiamo meglio e decido io come. Quando diventa uno schiaffo è un atto, diciamo la parola grossa, infame verso una società che ha bisogno di spazi, allora diventa veramente un atto che non si può accettare. E quindi è giusto che uno gli spazi se li riprenda, visto che... Sì, perché è tuo, perché non è la città non è soltanto di chi ci mette addosso un'abitazione, o meglio in questo caso la compra perché può speculare, poi gli va male e allora la lascia lì. Cioè non è che dice: sono un buon pazzerellone, compro un grattacielo di cento e tanti metri e poi me lo lascio lì vuoto e passo e dice: è mio, è mio. Ma dico, siamo veramente sulla pazzia questa. No, questo è capire se però dall'altra parte uno possa passare e dire: è mio alternativamente, cioè dice almeno quello l'ha pagato, poi lo potrà utilizzare male, come ci dice Ostellino, può essere espropriato. Comunque vorrei ripartire da qui tra un attimo, dopo l'informazione sul traffico. La domanda chiave però è questa, poi gliela vorrò rifare, ma occupare, Dario Fo, occupare uno spazio pubblico o se vuole in questo caso privato, perché è privato, che sia l'uso, l'utilizzo che ne è fatto, non è un reato in sé? Allora, il tema è quello che è successo, sta succedendo alla Torre Galfa, edificio abbandonato da anni del costruttore Ligresti, prima occupato da un collettivo di artisti, ieri sgomberati. Piero Ostellino, il punto su cui Dario Fo metteva l'accento è quello che dicevo anch'io, cioè l'idea che la città è un po' di tutti, dice Dario Fo, e quindi non è che se uno compra una cosa, legittimamente la compra, però poi la lascia lì, si può baloccare di questo edificio che non utilizza e che lascia nudo. Ma Dario Fo dice anche dei cittadini il diritto di dire: vabbè, allora ce ne riappropriamo, perché quello è uno sfregio infame alla città stessa. È davvero così folle questo discorso, secondo lei? No, non è affatto folle, cioè è un discorso di tipo comunistico, socialistico, chiamiamolo come vogliamo, cioè che la città sia di tutti è un'affermazione retorica che non significa fondamentalmente nulla. La proprietà invece in un paese come il nostro è un diritto soggettivo. Se io costruisco sulle rive del fiume una fabbrica e poi inquino il fiume, faccio un danno alla collettività, agli altri, e quindi c'è il diritto da parte dello Stato di intervenire e ci sono delle leggi che impediscono e proibiscono di inquinare i fiumi. Ma se io ho una proprietà in città, la compro e poi non la utilizzo, sono affari miei. E cioè o si arriva all'esproprio della proprietà e quindi siamo un paese diverso, oppure intoccabile. Siamo la Repubblica Democratica Tedesca o l'Unione Sovietica, oppure è intoccabile, fin tanto che viviamo in un paese di democrazia liberale. Se poi vogliamo vivere in un paese socialista, ciascuno scelga la propria parte, però io scelgo la mia, cioè voglio vivere in un paese dove se non viene utilizzata una proprietà o qualcosa di questo genere non interviene un altro cittadino che dice beh io ne ho bisogno e la requisisco, ma che senso ha? Dario Fo, insomma, ha sentito, tra l'altro è un reato per il codice penale anche occupare, ci scrive anche Matteo Salvini, non so se è tra Matteo Salvini, esponente della Lega, nostro grande ascoltatore, ci scrive occupare è reato, punto. Ad ogni modo, visto questo discorso sul comunismo, le faccio memoria che nel Medioevo, e proprio a Milano, esistevano dei codici, delle leggi, per cui l'uso senza rispetto di quella che è la popolazione che vive intorno al tuo abitato è un reato, cioè è mancanza di rispetto per la comunità. Quando nelle leggi bisogna sempre ricordare che il cittadino fa parte di una comunità e quindi l'esempio che facevo sul fiume vale anche sulla strada. La strada non è tua, è della comunità e tu stai muovendoti con il tuo grande costruzione su un luogo che è vissuto dalla comunità. Sì, ma l'ingresti mi lasci finire. La pagata c'è quella cosa. Una legge, attenzione, tu non puoi costruire dove, come, ci sono delle leggi per cui facendo l'impianto di uno stabile che per esempio produce ombre in eccesso e non permette a chi abita vicino di vedere il sole se non alcuni momenti come succede a Milano, c'è un processo in atto proprio per questa ragione nella costruzione di alcuni grattacieli. Quindi vede che quello che voglio dire, Fo, scusi, se l'igresti o chi per lui nel costruire viola delle leggi, ci saranno dei reati che farà e che verranno perseguiti dalla legge, ma la risposta è di fronte a una proprietà privata inutilizzata, usiamola meglio noi, arrogandoci il diritto di... La cosa non è così drastica, la cosa è legata alla civiltà e le leggi si muovono a seconda dei bisogni che ha la società e la collettività. Ripeto, l'aria non è tutta tua, purtroppo a Milano è di chi la usa in modo sgangherato, ma è un reato o no? Per esempio porre la cittadinanza in una situazione di malattie, di dramma sul piano respiratorio e via dicendo. Eppure non c'è mica nessuna legge che dice da qui a qui è mio e tuo e suo eccetera. Senta, che ne quindi... pensa di Pisapia? Le Pisapia che ieri è intervenuto ha detto vi diamo un'altra area. Prima di tutto Pisapia aveva già dichiarato quando è stato eletto sindaco che a Milano c'erano degli spazi inutilizzabili, che era una vergogna vederli così abbandonati e tenuti abbandonati per questioni legate allo spazio da commerciare e soprattutto da sfruttare sul piano dell'economia e che bisognava rivedere tutta questa questione e distribuirli ai giovani soprattutto e alle persone che hanno bisogno di questi spazi per abitarli. Quindi il discorso è già previsto, non è che gli è saltato in mente di colpo ieri mattina. Poi quando si è successo l'occupazione ha detto l'occupazione è un atto civile in questo momento. Perché? E ha ripetuto quello che vi ho detto più o meno poco fa. Quando una struttura è dentro il contesto della città, ebbene bisogna naturalmente fare in modo che serva alla città e non sia contro la città. Tra l'altro, Ostellino, stamattina io sono passato questa via, che è via Galvani, all'angolo di via Melchiorre Gioia, chi è di Milano sa cos'è, comunque sono vie centrali, arterie importanti, è ancora bloccata. Che bisogna fare, secondo te? Cioè, sono lì attendati, sono in pochi ovviamente, tutto questo è accettabile secondo lei per una città come Milano? Innanzitutto bisognerebbe dire che il diritto di proprietà non è un diritto illimitato, il diritto di proprietà è regolato dalle leggi, in un paese di democrazia liberale le leggi sono i regolamenti edilizi, non si può costruire in certe zone perché altrimenti si turba anche, come dire, l'aspetto estetico, ma questo lo decide la legge, non devono deciderlo i cittadini che passano per la strada e dicono non mi va quell'edificio e quindi decido di occuparlo. Cioè, ma in che razza di paese vogliamo vivere? Cioè, vogliamo vivere in un paese dove ciascuno si alza al mattino e fa quello che gli pare? La libertà è un fatto giuridico, e cioè ci sono delle leggi che la disciplinano, ed è limitata, cioè è limitata al diritto di proprietà di chi possiede la proprietà, ma anche di non arrecare danno agli altri. Sì. Questo è il diritto di proprietà in qualsiasi paese civile. Da noi invece si alzano dal mattino dei ragazzi e dice vogliamo fare cultura. Poi che cosa voglia dire non si capisce nemmeno. Occupano un edificio e dicono questa è la nostra libertà. Ah, io sono ieri stato lì un paio d'ore, ho sentito grandi discorsi, metà li ho capiti, metà no, ma sono laureato e la laurea non è presa in Albania, vi assicuro. Cioè, sono il capitalismo ci ingloba, la struttura orizzontale, non verticale. Alcune cose però le ho capite. In ogni caso ringrazio tutti, da Filippo Reggi regia, a Diego Rovelli in redazione con Elisabetta Fusconi e Alessandro Longoni. Ci ritroviamo domattina alle 7:20. 24 mattino.